Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Dal 1 gennaio 2013 rischiamo di avere i rifiuti nelle strade di Roma. Parla il commissario e prefetto Goffredo Sottile. L'iniziativa del comune di portare rifiuti all'estero, non so dove. La possibilità dell'esercito non esiste per il ministro dell'ambiente Corrado Clini per affrontare l'imminente emergenza rifiuti nella capitale. 56 milioni di euro di multa, tanto l'Italia potrebbe dover pagare per la sua gestione leggera dei rifiuti. Monti dell'Ortaccio, una scelta che gli stessi europarlamentari definiscono incomprensibile, nonostante i progetti dell'unico uomo che ha tratto beneficio dall'inerzia della politica. Chissà perché in Italia, puntualmente, ma non da adesso, da anni, sono anni che faccio questo mestiere, e ogni tanto, di 2, 3, 4 mesi, così, si deve parlare di spazzatura. Perché? Perché sembra che gli italiani, che producono spazzatura come la produce qualsiasi essere umano, civilizzato, industrializzato, poi non siano capaci, non abbiano voglia, non abbiano desiderio, non si applichino veramente, o perlomeno chi ci si applica non ci si applica con la finalità di risolvere un problema per il bene comune, allo smaltimento, perlomeno alla gestione della loro spazzatura. Questo non so se risponde a una nostra profonda, atavica, viscerale, genetica incapacità di concepire il fatto che produciamo rifiuti, ma in effetti il problema è grosso. Come avete sentito, già accennato la copertina, adesso lo faccio sentire in maniera più dettagliata, fra tanti problemi che avremo non è detto che tra un po' Corte di Giustizia europea ci richiamerà e ci chiederà di rispondere del fatto che non siamo in regola con le norme europee nella gestione dei nostri rifiuti, e si parla di una multa che dovremo noi accollarci di 56 milioni di euro, che non sono assolutamente pochi. 800 24 0024, come affrontate nel vostro piccolo, specifico, individuale il problema della gestione della spazzatura? Siete tra i fortunati o sfortunati cittadini che gravitano e abitano in quelle zone che ogni tanto vengono scelte per creare discariche, che pare la maniera più semplice che abbiamo nel nostro paese per eliminare o perlomeno per non guardare, non vedere, non pensare alla spazzatura, o altri luoghi dove vengono trattati i rifiuti? Siete fra quelli che poi scendono in piazza, che fanno le barricate, dicono qui da noi ma da un'altra parte, perché non esiste un luogo fisico in cui le persone poi siano felici e contenti di avere accanto un grande immondezzaio, anche se in regola con le normative europee. 800 24 0024. Discariche abusive e smistamento incontrollato, la Commissione europea ha chiesto la condanna del nostro paese alla Corte di Giustizia. Eravamo già stati avvisati e non abbiamo rispettato la sentenza che ci riconosceva colpevoli, quindi recidivi. Ad oggi 255 discariche, 16 contenenti rifiuti pericolosi, devono essere ancora bonificate. Nonostante gli impegni assunti dalle autorità italiane nel 2007, solo 31 discariche problematiche saranno bonificate entro la fine dell'anno. Alla Commissione poi non risulta che l'Italia abbia istituito un sistema di controllo adeguato per evitare l'apertura di nuove discariche illegali. Oltre alla multa, anche un'altra sanzione giornaliera, 256. Poi naturalmente c'è un altro aspetto, diciamo, più propriamente legato a alcune nostre realtà territoriali, che però proprio per la necessità di risoluzione anche truffaldina nel grande problema, il problema non è più territoriale, non è più legato alle regioni che in maniera storica sono luogo di malavita organizzata. Il problema del grande affare della gestione della spazzatura, che è un enorme mastodontico business, perché naturalmente smaltire dei rifiuti, perché produce molti rifiuti, capito? Sia essono una istituzione, sia esso una grande industria, sia una persona con una sua qualsiasi attività che produce scorie di vario tipo, è molto oneroso appunto lo smaltimento di queste scorie. Se arriva una persona che ti fa un prezzo concorrenziale, ti dice: guarda, ci penso io perché devi spendere tanti soldi, ti assicuro, ti do tutti i certificati, faccio tutto in regola, molti chiudono un occhio, se essi che siano al nord, al sud, al centro del nostro paese, e chiudere quest'occhio apre un altro fronte di questo problema. I fanghi industriali provenienti dal nord Italia venivano scaricati nei terreni agricoli del Casertano, facendo credere ai contadini che si trattava di concimi, nutrienti per la terra. Rifiuti solidi urbani provenienti dalla cintura milanese venivano tombati, sepolti nelle viscere della terra sempre tra Napoli e Caserta. In quella zona che gli antichi romani definivano Campania Felix per la fertilità dei terreni e che il clan dei Casalesi e i loro imprenditori di riferimento hanno ingravidato con monnezza e fanghi d'ogni genere. Vedete come è colorito giustamente il linguaggio del collega di Sky TG24 da cui abbiamo preso queste clip. C'è una sorta di perversa fecondazione di un terreno, poi sappiamo esattamente come vanno le vicende. Fanghi tossici spacciati per fertilizzanti, poi i contadini li mettono sulle loro terre, poi quello che noi mangiamo, che noi ingeriamo, entra in una perversa catena di avvelenamento. Questo è un problema tipico del nostro paese. Esistono delle circostanze ambientali, culturali, per cui noi siamo a questi livelli, o è un problema diffuso? È il problema dell'umanità contemporanea, quella di produrre più rifiuti di quanti se ne sia in grado razionalmente di organizzare, di gestire? Questo lo domando all'ospite di questa mattina. Raffaele Rossi, buongiorno. Buongiorno a voi. È un professionista specializzato nella progettazione di sistemi per la raccolta differenziata, ha prestato la sua collaborazione a vari comuni italiani per affrontare appunto questo problema dei rifiuti. La mia domanda è: un problema tipicamente nostro, tipicamente italiano, o è un problema globale, noi lo affrontiamo per quello che riguarda il nostro paese? Ma è entrambi, è un problema globale che attanaglia il mondo, perché l'uomo diciamo ha sovvertito le regole della natura. In natura non ci sono rifiuti, c'è un percorso ciclico della trasformazione della materia, e l'uomo invece ha prodotto, ha costruito un sistema di produzione nel quale invece produce rifiuti a tutti i livelli, un sistema lineare che non si smaltiscono. Sì, facciamo conto, se la natura aveva questo circuito ciclico, invece l'uomo quando estrae le risorse dalla natura consuma energia e produce rifiuti, quando le trasforma in prodotti di nuovo consuma energia e produce rifiuti, quando le consuma, il sistema consumista nel quale siamo, di nuovo consuma energia e produce rifiuti, e poi addirittura nello smaltimento, anche per smaltire i rifiuti, arriviamo a bruciare energia e consumare e produrre rifiuti. Però, mi sembra, però, scusi Raffaele Rossi, che non vogliamo nemmeno seminare intanto utopie. Questo processo al momento mi sembra un po' difficile da modificare, quindi purtroppo sì, oppure mi sbaglio. La raccolta differenziata in realtà è il fatto di provare a riportare questo circuito, diciamo ritornare a circuito da un percorso lineare. No, cioè il sistema che produce i rifiuti, è difficile pensare che l'uomo non, per procurarsi energia o per appunto assicurarsi alcuni prodotti, ritorni a una gestione fra virgolette naturale delle proprie risorse. No, sicuramente no, però se noi produciamo una bottiglia di vetro da del vetro fracassato, del vetro usato, noi risparmiamo energia e risparmiamo materia, e quindi in una piccola percentuale interrompiamo quel circolo vizioso della produzione che estrae dalla natura e rigetta in natura dei rifiuti. E quindi l'obiettivo della raccolta differenziata, specie della raccolta differenziata spinta, è quella di riuscire a gravare meno sull'ambiente. Lei però prima mi chiedeva se era un problema italiano o globale. È sicuramente globale, ma in tutti i paesi che hanno una programmazione pubblica inefficiente, questo problema globale diventa drammatico, e diventa drammatico proprio nel nostro paese, in cui abbiamo dei problemi giganteschi di programmazione pubblica, perché questo è un tema che va affrontato con una efficace programmazione pubblica. Quello che sta succedendo a Roma è proprio un contesto del genere, una mancata programmazione che crea alla fine delle tante emergenze per risolvere le quali bisogna derogare alla normativa che invece sarebbe stringente. Quindi quando ci sono le emergenze uno comincia ad andare in giro, cerca i siti dove poter cominciare ad accatastare, accumulare questa massa enorme di roba, poi naturalmente i cittadini si rivoltano, poi allora ci si sposta, poi si entra in questa catena ingestibile. E come si risolve alla fine? Si prende, si impacchetta tutto, si spendono un sacco di soldi e si esporta verso dove ancora ci sono persone disposte a prendersi la nostra mondezza. E diciamo che questo è un modello, così come è anche un modello quello di fare le cose come si deve, perché abbiamo la fortuna nell'avere un paese molto variegato, di tanti alti e tanti bassi, di avere anche tanti alti di comuni estremamente virtuosi che fanno le cose correttamente. E se noi prima dicevamo che questo era un vizio italico, in realtà una cosa che ho potuto imparare in questi anni di esperienza è che i cittadini, che non è un problema di cultura dei cittadini, perché i cittadini rispondono con la raccolta differenziata in modo eccellente, che si sia a Trento o che si sia a Scampia, a Napoli. Quello che cambia spesso è la volontà e la capacità degli amministratori pubblici di organizzare dei sistemi efficienti di raccolta differenziata. Sentiamo qualche ascoltatore, poi le chiederò nel più specifico chi è che si comporta meglio, chi si comporta peggio, perché la differenziata hanno tentato anche di lanciarla qui a Roma. Per alcune settimane c'erano dei signori che raccoglievano l'umido, ci davano i sacchetti differenziati, ma è durato veramente pochissimo tempo. Poi i sacchetti sono tutti tornati nello stesso identico contenitore. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Io telefono da una località che è Montale, qui a Giana. E noi siamo nella immediatezza di un impianto di incenerimento dei rifiuti. Che provincia è? Provincia di Pistoia. Sì. Pistoia. Io fra l'altro sono un giornalista pubblicista, quindi collaboro con un periodico, un blog che si occupa anche di pubblicare i misfatti di questo inceneritore. Io volevo richiamare l'attenzione sul fatto che allorquando le autorità amministrative e gli enti proclamano il rispetto delle emissioni, dei valori di emissione degli impianti di incenerimento, questo purtroppo è un atto che non permette di tutelare la salute pubblica, perché c'è un fenomeno che è quello appunto dell'accumulo delle sostanze inquinanti nell'organismo umano, che è un problema che non si risolve assolutamente con un controllo delle quantità. Sono lei mi pone, Alessandro, un problema ancora ulteriore, nel senso laddove ci sono gli inceneritori, quindi sono i luoghi deputati allo smaltimento dei rifiuti, poi esiste un problema anche di controllo delle emissioni di questi inceneritori. Esatto, ma noi abbiamo una quantità, per esempio 9 polli su 13 sono fuori, polli campionati dall'ASL, non dai cittadini, quindi ASL ha campionato il pollo di conti allevatori e ha trovato che una quantità incredibile, 9 su 13, sono non commestibili, cioè sono rifiuti tossici nocivi. Cioè la gallina stessa diventa un rifiuto ambulante. Qui abbiamo i bambini che vengono portati a fare attività sportive nei parchi. Nel comune di Montemurlo c'è un campo sportivo a 500 metri dall'inceneritore dove i bambini vengono portati a fare il calcio con quantità di particolato fine pari a 80-90 microgrammi per metro cubo, quando a Milano con 50 microgrammi chiudono il traffico. Io mi rendo conto, quindi, Alessandro, quando sento telefonate come la sua mi viene a pensare che esistono delle situazioni che vengono vissute con un pathos diverso a seconda della latitudine in cui viene prodotto il fenomeno. Detta al telefono, le persone camminano per la loro strada, continuano a guidare l'automobile, fanno le loro cose, sono tentate a dire è un problema più loro che nostro, ma non è esattamente un problema solo del luogo in cui accade questo. Il collega Alessandro ce lo sta denunciando in maniera molto veemente, ma mi rendo conto che se le soluzioni sono queste, non è proprio la strada giusta. Raffaele Rossi, rispetto a questa telefonata. È un po' il problema, nel senso che abbiamo gestito la materia dei rifiuti nel passato come se il mondo fosse infinito, come se la terra ci sarebbe stato sempre spazio per discariche, come se il cielo fosse infinito, e abbiamo nascosto i rifiuti appunto in terra e in cielo. Il nostro paese però è piccolo, lo spazio è poco, l'inquinamento, gli impatti dell'inquinamento arrivano dappertutto, anche fuori dalla pianura padana, che è un luogo solitamente di concentrazione di inquinamento, e quindi è fondamentale ripensare completamente il modello di... Ma i parametri di controllo di un inceneritore, viene a questa ultima telefonata, viene a pensare, poi chi deve controllarli, chi deve stabilirli, e l'inceneritore è una delle diciamo tecnologie accettabili in linea con la contemporaneità per smaltire i rifiuti? è una tecnologia che fino ad ora è stata accettata, però teniamo conto che i parametri, i valori soglia fissati per legge di inquinamento di un impianto di incenerimento non sono valori che ci dicono che quell'impianto è sicuro, sono valori che ci dicono che la tecnologia non può fare ad oggi di meglio, esattamente come funziona per un'automobile, per altri tipi di elementi combustibili. La differenza profonda però è che altre formule di inquinamento sono inevitabili, quella dei rifiuti invece lo è perfettamente evitabile da pratiche virtuose. Quindi sicuramente non è che le soglie di limite di legge ci dicono che gli impianti sono sicuri, anche perché le soglie dei limiti di legge ci dicono quanti inquinanti per metro cubo devono essere contenuti nei fumi al camino, ma le quantità di fumi dei grandi inceneritori sono tali e a volte i controlli sono così laschi che il rischio ci può essere. Poi, cioè quello che si addensa intorno all'inceneritore è quello che ci raccontava il nostro ascoltatore, le galline putrefatte che camminano, i bambini con i livelli altissimi appunto di sostanze inquinanti rispetto ad altre città. Purtroppo c'è un caso vicino a dove chiamava l'ascoltatore, c'è il caso dell'inceneritore di Falaskaia, nel quale è stata proprio condannata poco tempo fa la dirigenza, l'amministratore delegato e il direttore generale, perché loro avevano un computer per far vedere alle scuole e agli ospiti, nel quale monitoravano l'andamento dei appunto degli agenti inquinanti, e poi avevano un software che in realtà aggiustava i dati e che quindi ha permesso per anni di superare le soglie di agenti inquinanti rilasciati in atmosfera. Sono stati condannati pochissimi mesi fa, credo nel giugno di quest'anno, a una multa, l'uno di 5.000 euro, l'altra di 3.000 euro. E la cosa impressionante è che non è stato scoperto dall'autorità giudiziaria, è stato scoperto perché un cambiamento societario nella proprietà dell'impianto di incenerimento ha fatto sì che i nuovi proprietari non se la sentissero di prendersi la responsabilità. Non hanno aggiornato il software, che ha detto la verità, e poi alla fine il computer segnava il vero livello di inquinamento. No, è successo che la nuova proprietà non voleva prendersi la responsabilità di quello che aveva fatto la vecchia proprietà. Però vi faccio questo esempio. Vabbè, un'infamità terribile, come quelli che mettono la calamita nel contatore dell'acqua o del gas per non farlo segnare. Esatto, solo che in questo caso la calamita era messa sulla nostra salute. Sono cose che si vedono nel lungo periodo, però purtroppo questi inquinanti si accumulano nella catena alimentare. L'ascoltatore parlava del pollo, il problema è che questi inquinanti si fermano sull'erba, gli animali mangiano l'erba, noi mangiamo gli animali, e alla fine noi che siamo in cima alla catena alimentare diventiamo il punto di accumulo di molti di questi agenti inquinanti. Avviene in un tempo medio o lungo e quindi non è direttamente identificabile, però è per questo che nel lungo periodo non possiamo più permetterci questo tipo di gestione dei rifiuti. Però mi rendo conto, Raffi Rossi, ascoltando le notizie, anche i reportage della nostra radio, ricordo quello che accade ad esempio, è un altro caso e non c'entra nulla, a Taranto sulla questione Ilva. È difficile che la sensibilità generale del nostro paese anteponga la salute rispetto ad altre quotidiane necessità, come ad esempio il lavoro, le attività. Nessuno poi si pone il problema personale individuale che questo poi faccia male a noi. Sembra sempre che debba accadere soltanto agli altri, che è trascurabile, che non tocca a noi, i nostri affetti e la nostra famiglia. Enrico, buongiorno. Buongiorno, io sono Enrico da Roma. Sono un cittadino molto ignorante, però abbastanza, diciamo, sensibilizzato per i problemi ambientali. Io ho letto giorni fa che esiste in provincia di Treviso, precisamente a Vedelago, che si può vedere anche su internet, esiste una industria che raccoglie i rifiuti di Treviso e della provincia di Treviso e li ricicla all'85%. Allora io mi faccio una domanda. Tutto ciò che c'è in natura, secondo me, è riciclabile, no? Allora, per quale motivo dobbiamo avere le discariche che poi a lungo andare inquinano la falda acquifera? E perché dobbiamo... Sì, ho visto, raccolta differenziata al 99%. Ah, benissimo, benissimo. Vanno raccolta differenziata e riciclano tutto. Così dicono loro, poi non so, adesso sentiamo il nostro ospite. Lei dice, ci sono delle situazioni pilota così felici, perché non si applica il modello una volta sperimentato in tutto il paese? Sentiamo Raffaele Rossi. Rispetto, lei sa di questo centro? Sì, certo. Le rispondo in primis dicendo che non è un impianto che risolve, diciamo, non è un impianto sostitutivo a discariche e inceneritore, assolutamente. È un impianto che integra un ciclo nel quale la raccolta differenziata già è all'80% e si interviene su quella parte rimanente. Quando la raccolta differenziata, che, come dico, si può fare dappertutto, voi avete parlato di Roma poco fa, io ho lavorato alla progettazione del primo quartiere di Roma che ha fatto la raccolta differenziata porta a porta, il quartiere di Colli Aniene, in cui si è fatto il 65% di raccolta differenziata. Lo dico perché la raccolta differenziata, se fatta bene, se seguita, può dare risultati eccellenti ovunque. Detto questo, quando i risultati sono così alti... Io devo dire onestamente, abito in Prati, la raccolta differenziata più intensa e più efficace vedo fare quella che fanno i rumeni, che vanno a raccogliere nei cassonetti e portano via le cose praticamente H24 mattina e sera. Però mi perdoni, il problema della raccolta differenziata, che è stata fatta anche a Roma con, in alcuni quartieri, in realtà in piccoli territori, ma in alcuni quartieri in modo efficace, io non le parlo di quello che è avvenuto successivamente con la cosiddetta raccolta duale, io le parlo di sistemi che hanno dato risultati anche eccellenti e che sono quelli che danno risultati eccellenti un po' dappertutto, da Treviso fino ad arrivare appunto ai quartieri romani o a Napoli in cui è stata fatta. Il problema è seguirla e tra l'altro anche incentivare i cittadini che si comportano bene, così come richiamare i cittadini che si comportano male, per farne tanta ma per farla anche bene. Però per tornare fermiamoci un attimo, Raffaele Rossi, devo dare la linea all'informazione della borsa, poi ci dirà come bisogna fare, qual è anche la maniera di incentivare i cittadini, perché il senso generale è che uno in buona fede sensibilizza la famiglia, la fa per un mese, due mesi, tre mesi, poi alla fine, vedendo che nessun altro la fa, vedendo i cassonetti sono strapieni di una massa informe di oggetti, vedendo pacchi di cartone buttati nel cassonetto comune, vedendo lavatrici, vedendo rifiuti tutti buttati per terra, diciamo, perché io devo essere il solo a farlo? L'idea che la propria raccolta differenziata comunque poi vada a rigettarsi una indifferenziata massa di raccolta dei rifiuti, quindi è totalmente inutile. Vabbè, qua è perfetto, siamo vicino all'autostrada, i camion arrivano fino a là, a quel punto là scaricano la terra e coprono tutta l'acqua. Perfetto, perfetto. Franco, sono 85 metri. Chiedi pure la lunghezza. Aspetta, vieni qua. Franco! Vieni qua. Vuoi Dante? Buongiorno. Ciao. Sto bene? Sto bene. Allora che dici? Va bene. La vogliamo riempire questa casa? Sì. Se è così, la riempio io, non ti preoccupare, la riempio io. Digli allo zio che va bene. Va bene. Ecco, come nel film Gomorra veniva risolto in maniera nostrana il problema, i due... diciamo inviati della malavita organizzata, la Camorra, vanno in giro a rimediare terreni, in questo caso una grande cava dismessa, per poter poi stoccare e mettere dentro rifiuti. Nel giro di una notte, con i camion guidati dai bambini, rovesceranno tonnellate di spazzatura che viene dal nord, naturalmente, copriranno tutto e lì inizia la lenta diffusione del veleno, poi nelle falde acquifere e via dicendo. Questa è una delle tante maniere, ma mi scrive un altro ascoltatore, cioè sì, la raccolta differenziata dell'umido va bene, io mi mangio l'orata il venerdì sera, me la devo tenere poi tutta la notte, magari d'estate a 40 gradi dentro casa, mi sembra possibile. Raffaele Rossi, ricordo che è un professionista, lo state ascoltando, molto specializzato nella progettazione di sistemi per la raccolta differenziata, è stato consulente, ha collaborato con vari comuni italiani per affrontare questo problema. Entriamo nello specifico, l'ascoltatore che ci dice la raccolta dell'umido, che sembra quella più faticosa, più difficile, in realtà comporta un sacrificio familiare, tenersi in casa roba che non è certo il massimo, anche per una notte, in attesa di poter portare il sacchettino con le proprie schifezze il giorno dopo nel centro raccolta. È vero, la raccolta differenziata chiede impegno, ed è vero che quando appunto si deve conferire il rifiuto il giorno dopo ancora, perché appunto si sta facendo una raccolta differenziata anche magari porta a porta, e in cui quindi i cassonetti non sono più in mezzo alla strada. Diciamo che l'umido è il vero problema, perché poi cartone, plastica, altre cose, certo, non danno fastidio. È il sacchettino col cadavere putrefatto dentro che sta in casa vari giorni, che poi bisogna portarlo fuori in ascensore, è imbarazzante, si scende in ascensore con la vicina, uno già con la schifezza in mano. Non è una cosa che aiuta la socializzazione, però va fatto. Però paradossalmente è proprio l'umido, è proprio l'organico che è la frazione più facile da riciclare, facile dal punto di vista chimico, perché è quella che si trasforma meglio, quella che direttamente ritorna a diventare compost, è proprio quella che paradossalmente dà più problemi se messa in discarica o se messa all'inceneritore, perché in discarica la mela, che da sola sarebbe un prodotto della natura e che tornerebbe così facilmente alla natura se fossimo appunto in natura, purtroppo in discarica una mela diventa una bomba, una mela produce percolati e biogas, quindi quella mela mescolata con tutto il resto in discarica ha un impatto ambientale importante, e all'inceneritore stessa cosa, bruciare dell'acqua, bruciare una mela ha un costo energetico invece di avere un rendimento. È per questo che paradossalmente l'organico è proprio quello che a smaltimento crea i danni maggiori. Quindi quel torsolo di mela che non vogliamo tenerci dentro la pattumiera di casa perché ci dà fastidio, in realtà poi diventa una bomba esplosiva nel grande processo dello smaltimento. Sentiamo Antonino un attimo. Antonino, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamo da Torino. Non so se lo sapete, da poco tempo è stato stimato l'inceneritore che poi sarebbe il più grande d'Europa. Mi creda Gianluca, l'inceneritore non è una soluzione. Io sono un infermiere, tra l'altro ho chiamato per altre volte, e lavorando in ospedale ci siamo accorti dopo un periodo che dove eseguivamo lo smaltimento dei rifiuti, noi buttavamo per esempio la plastica nei contenitori idonei, e poi ci siamo accorti che alla fine questi contenitori venivano mescolati, rimescolati con tutti gli altri. Ma anche i rifiuti speciali dell'ospedale, no? Spero. No, i rifiuti speciali dell'ospedale ovviamente sono quelli che vanno negli alipack chiusi, e poi solo diciamo un mezzo appropriato speciale che utilizza diciamo lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri, quello è a parte. Però per quanto riguarda tutti gli altri rifiuti, quelli urbani, dove la plastica doveva essere diciamo selezionata e quindi poi riutilizzata, perché comunque la plastica viene rimacinata e viene poi riutilizzata, come per esempio il sistema di Vedelago che qualche ascoltatore prima... Sì, molti stanno telefonando da quella zona, sì, dicendo sì. Esatto, aveva accennato, ma Vedelago secondo me è una buona risoluzione, perché comunque è il 98-99% di riciclo. Il problema è la differenziata... Sì, ma però come ci ha spiegato il nostro ospite, sì... Però funziona quando funziona a monte tutto il sistema di smaltimento e di raccolta, se no buttato in mezzo al caos non serve a nulla. Sicuramente l'amministrazione è quella che deve impegnarsi per prima, perché come stiamo vedendo per esempio qua, a me sembra, dato che io abito a Torino, che l'amministrazione Fassino insomma sembra più che altro una questione di comodo mettere un inceneritore, perché dato che non sono tutte le zone coperte sulla differenziata e di conseguenza l'inceneritore risolve i problemi, però il problema dell'inceneritore sono tanti. Anche le Molinette ha fatto a suo tempo delle riunioni, delle convenzioni, insomma, dicendo che dava dei problemi in inceneritore, che nel raggio di 5 chilometri non potevano esserci insomma allevamenti, non si poteva. Sì, però come ha detto Raffaele Rossi, adesso la faccio intervenire, non è che l'Italia ormai è un deserto, ha delle zone così ampie in cui possa essere messo in sicurezza un inceneritore. Comunque si insiste su un territorio, ci sono persone, ci sono coltivazioni. Sulla questione che solleva l'ascoltatore rispetto a Torino, Raffaele Rossi. Sì, guardi, io poi mi sono occupato proprio a Torino dello sviluppo delle raccolte differenziate sulla città, e Torino è un caso molto interessante, perché Torino ha mezza città, cioè circa 450.000 abitanti, che con un sistema di raccolta porta a porta fanno più del 60% di raccolta differenziata. L'altra mezza città ha ancora un sistema stradale che dà i risultati tipici della raccolta stradale, cioè circa il 20-25%, 42%, che portano la media cittadina al 43%, che è la città metropolitana più grande, cioè più che con il risultato migliore d'Italia di queste dimensioni. L'inceneritore di cui citava l'ascoltatore, che è l'inceneritore del Gervido, che è in costruzione, che entrerà in funzione ad aprile, è a mio avviso è un impianto sicuramente sovradimensionato rispetto alle quantità di rifiuti che si producono oggi appunto con la raccolta differenziata. La raccolta differenziata ci sta insegnando che noi avremo bisogno di quantità di smaltimento molto più basse laddove si fa, e il rischio è che invece di essere questi impianti di smaltimento a nostro servizio, si sia noi al servizio di questi quindi impianti. Quindi il vero anello debole è che gli italiani non sono molto propensi ad accollarsi l'onere civile di fare la raccolta differenziata, mi sembra di aver capito. Sì, anche se in realtà sono, diciamo, io ribalto il problema sugli amministratori, nel senso che gli italiani la fanno e come, laddove li si mette in condizione di farla bene. I sistemi, oramai si sa benissimo quali sono i sistemi che funzionano e quali sono i sistemi che non funzionano. Purtroppo a volte molti amministratori non la mettono in campo, o se la mettono in campo, la mettono in campo male, avendo degli insuccessi, come quelli che citava lei nei quartieri romani. Sì, è chiaro, uno poi vede passare lo stesso camion e mettere tutto bravo dentro, dopo aver fatto la fatica di mettere le bottiglie, raccogliere del cartone da un'altra parte, arrivano e mettono tutto dentro lo stesso camioncino, certo. Dici, ma che l'ho fatto fare? Certo, è proprio così, perché poi il problema della purezza delle frazioni è fondamentale. Diceva prima l'ascoltatore che ha visto mettere insieme le frazioni, spesso si sente dire tanto rimescolano tutto, e purtroppo se la raccolta differenziata è di cattiva qualità, il rischio c'è davvero, perché è più costoso andare a ripulire una frazione sporca di quanto non sia il valore di quella frazione. Quindi è fondamentale fare la raccolta differenziata, ma anche farla bene, ed è il problema per cui i contenitori stradali non danno spesso dei buoni risultati, proprio perché basta che arrivi uno che rovini il lavoro di tutti, certo, gli altri, sì, che hanno fatto bene. Poi c'è la signora anziana che non ce la fa alzare il cassonetto, quindi lo mette quello che gli è più vicino, o bisogna fare della strada, che non sono distribuiti poi ugualmente in tutti i quartieri. Uno dice, perché devo attraversare una strada e fare 50 metri per portare le bottiglie? Io non ce la faccio, le butto sotto casa. C'è anche questo il problema. Sentiamo Daniela un attimo. Daniela. Salve, chiamo da Ranica, un paese della provincia di Bergamo. Noi facciamo della raccolta differenziata un lavoro, nel senso che più raccogliamo in modo differenziato, meno paghiamo la tassa. Ecco, il famoso incentivo che diceva Raffaele Rossi, è questo. Sì. Come funziona? Come funziona? Allora, noi abbiamo praticamente tutti i giorni, giorni alternati, la raccolta di umido, lattine, plastica, indifferenziato e cartone. Praticamente viene messo fuori dalla porta di casa, ci sono dei sacchi di diversi colori, lei calcoli che per l'indifferenziata ogni sacco costa 1,50 euro, quindi noi cerchiamo di consumare meno sacchi rossi, noi li chiamiamo così, perché ci costano. Sono quindi quelli più costosi, perché sì, per disincentivare perché l'idea di mettere tutto lì. Sì, quindi sì. Tutto il resto invece viene fatto in modo gratuito, quindi plastica, cartone, alluminio, e poi il comune ha dotato ogni famiglia di un bidone per l'umido, quindi l'umido viene completamente, diciamo, abbiamo i nostri sacchetti. Ecco, dove lo tiene questo bidone dell'umido? Perché non tutte le allora, case hanno delle cucine che c'è allora, lo spazio per un bidone. Uno piccolino che ci viene dato per essere messo sotto il lavandino. Quello piccolo marrone, tanto per farci capire. Ecco, verde. E poi un altro che tengo sul terrazzo, io vabbè ho il giardino, lo tengo fuori, completamente, diciamo così, che si blocca e viene portato fuori due volte alla settimana, d'inverno una volta ed estate due volte, per poter smaltire il più in fretta possibile. In più calcoli che noi abbiamo la discarica, non la chiamiamo così, l'area ecologica, paghiamo, abbiamo un tesserino dove solo i residenti possono praticamente portare quello che può essere la televisione, anche l'erba del giardino, così noi paghiamo tutto, cioè viene pesata, viene e poi ci viene addebitato il costo. Quindi mi sembra aver capito, lei è un perfetto esempio di persona con senso civico e con coscienza e consapevolezza del problema, che non è, come ho detto all'inizio, in maniera terroristica che abbiamo la nostra fisiologica riottosità. Laddove le amministrazioni mettono in campo gli strumenti giusti anche per incentivare, come ha detto lei, a fare la raccolta differenziata, poi alla fine fa parte degli oneri quotidiani che un cittadino si prende volentieri. conferenze stampa contrapposte sul costruendo deposito delle scorie nucleari di Saluggia. Il Partito Democratico attacca. Quel deposito non va costruito, non è nel piano regolatore. Il sindaco Marco Pasteris, Popolo della Libertà, replica. Il centrosinistra di Saluggia, quando governava Saluggia nel 2006, ha incassato 526.000 euro di onere di urbanizzazione per la costruzione del deposito di due e delle opere connesse. La verità è questa, e quindi il centrosinistra di Saluggia ha autorizzato di fatto la creazione del deposito di due e opere connesse. Raffaele Rossi, mi viene un po' l'idea, ma forse sono malizioso, che molto spesso l'idea della raccolta dei rifiuti e lo smaltimento diventi un forte strumento di battaglia politica, e naturalmente questo non porta alla risoluzione del problema, diventa demagogia pura. Purtroppo sì, ogni tanto lo è da tanti punti di vista, anche a volte serve per facilitare la costruzione degli impianti, a volte serve, come è successo spesso al sud, per facilitare, diciamo, per promettere posti di lavoro. Ci sono, come dire, spesso purtroppo la demagogia si inserisce in modo forte. O si incita al popolo ad andare a fare catene umane per impedire l'apertura di una discarica, di un inceneritore, di un termovalorizzatore, via dicendo. Certo, però come ci ha mostrato l'ascoltatrice poco fa, esistono in Italia, sono numerosissime, sono milioni i cittadini italiani che abitano in contesti in cui la raccolta differenziata è spinta, e quando il sistema è efficace anche la qualità dei materiali è tale per cui si riesce a riciclarli effettivamente e a generare un effettivo risparmio per la collettività. Ma non è anche un problema, mi viene in mente, io sono talmente ignorante, quindi pendo le sue labbra, di progetto architettonico. Si cassonetti invece che in mezzo alle strade in maniera schifosa, luogo di vacanza e soggiorni estivi per topi, animali vari, fosse all'interno dei condomini, ci sarebbe anche una gestione più oculata, perché uno, avendocela poi sotto il naso la propria spazzatura, avrà il massimo dell'interesse, anche con il controllo generale dei vicini, nell'usarla bene. Perché non è più promiscuo, diciamo, la raccolta momentanea della spazzatura al luogo in cui si vive? C'è il cassonetto che alla fine non è di nessuno, non appartiene a nessuno, è in non luoghi per cui transitano tutti. L'ha chiamato proprio nel suo modo. Il cassonetto è una succursale della discarica, è un luogo in cui un non luogo nel quale culturalmente noi ci sbarazziamo del problema. E questo ha retto per alcuni anni e non regge più oggi che il mondo è così piccolo e che siamo in così tanti a produrre i rifiuti. È per quello che paradossalmente alcuni decenni fa si facevano i palazzi con delle pertinenze condominiali specifiche per mettere i contenitori, e negli anni 80 e 90 si è invece smesso di fare così e si è considerato il cassonetto come se non esistesse. E perché ci vede un appartamento in più al posto del luogo di raccolta? Me ne rendo conto, razionalmente. Di pianificazione, perché il problema di cui stiamo parlando è un problema di pianificazione. I rifiuti in sé non esistono. Il rifiuto da mettere in discarica è un errore di progettazione. Se non si può riciclare, è un errore di progettazione. Voglio dire, tutto si potrebbe oggi riciclare. Io ho visto una grande casa di produzione di cialde di caffè che sta lavorando sulla riciclabilità della cialda di caffè. Questo per dire che è un non problema, anzi è lo specchio dell'incapacità del nostro paese di risolvere quelli che dovrebbero essere dei veramente piccoli problemi. Fermiamoci. Manuel, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Nicolce. Senta, io ho un semplicissimo messaggio da trasferire, che è questo. Si continua a parlare di quella parte di rifiuti che non può essere riciclata. Intanto, il riciclaggio è una cosa eccezionale e va sviluppata il più possibile. Ci sarà sempre comunque una quota di rifiuto che non potrà essere riciclata. Per trattare questa quota di rifiuto si continua a far finta di non vedere che di fatto in Europa si sono sviluppate tecnologie che stanno funzionando in tanti paesi. Pronto? Sì, sì, la sto ascoltando. Ah, mi scusi perché mi stanno chiamando solo. Questa tecnologia, che in realtà è una tecnologia che esiste da tantissimo anno. Come si chiama? Gassificazione. La gassificazione è un processo termico che trasforma la materia in gas senza passare per il processo della fiamma, sostanzialmente. Questo con tutta una serie di conseguenze estremamente positive per quanto attiene l'impatto. Sentiamo il nostro esperto, Raffaele Rossi. Il gassificatore in Italia è poco usato, che suggerisce il nostro ascoltatore. Sì. Allora, Per far intendere agli ascoltatori, che cos'è la gassificazione? La gassificazione è una combustione incompleta, in carenza di ossigeno. Forse qualcuno ricorderà quando in campagna si faceva il carbone coprendo la legna di terra, facendola bruciare in assenza di ossigeno. Questa la carbonaia, è, sì. Esatto, la carbonaia. Questa è, detta in parole molto semplici, un processo di gassificazione, cioè una combustione imperfetta. È quello che accade molte volte spontaneamente nelle discariche. No. Questa è quando fumano non si capisce perché. In discarica quello che avviene è la produzione di biogas che avviene da dei batteri specifici che producono il biogas. In certe zone della Campania fuma il terreno perché sotto la camorra ci ha seppellito i rifiuti, non si capisce cosa succede. Questa è un'altra cosa. Diciamo, gli impianti di gassificazione sono degli impianti interessanti in laboratorio, però che in alcuni paesi come il Giappone hanno anche dato dei risultati interessanti, ma che in Europa non sono considerati affidabili. E non lo dico io, ma lo dicono gli studi dei principali politecnici. Cioè non ci sono impianti di questo tipo in Europa che funzionano in maniera continuativa efficacia o per sicurezza o perché ancora non sono abbastanza per entrambi perché bisogna considerare che i rifiuti sono una materia estremamente mutevole. Può succedere che da un mese all'altro oppure in funzione di tanti fattori il rifiuto muti e quindi gli impianti che esistono di questo tipo che ne esistono anche in Italia, ne avete uno a Roma a Malagrotta costruito dentro la stessa discarica, ma ce ne sono alcuni in Italia che presentano un funzionamento estremamente discontinuo e purtroppo a volte anche picchi di inquinamento. È molto interessante questa idea emotiva lato lei, il nostro rifiuto che acquisisce una vita propria, come se fosse uno zombie che si risveglia e va per un suo percorso che non controlliamo più. Questo dovrebbe farci riflettere sul fatto che andrebbe sistemato in una maniera giusta prima che acquisisca questa sua autonomia, proprio come si fa con gli zombie. Marco, buongiorno. Buongiorno, sono Marco. Sì, Marco, lei. Buongiorno, senta. Io vi sto seguendo molto attentamente, dottor Nicoletti. Io sono, come ha detto poi in redazione, voglio mettere il nome. Io sono importatore di un brevetto mondiale di sanificazione dell'aria in ambiente indoor. Allora, ho trovato dei freni e delle riluttanze da parte delle autorità italiane, presentato al Ministero della Salute. Spieghi esattamente cosa fa lei. Purifica l'aria intorno alle zone in cui si trattano i rifiuti? No, lei sta parlando da un luogo chiuso, io da un luogo chiuso, chi va in metropolitana un luogo chiuso, chi è in ufficio un luogo chiuso. Ecco, tutto quello che è chiaramente è misurabile e controllabile. L'ambiente chiuso si può sanare a un costo molto basso e cominciare dall'ambiente chiuso. Poi, come io sentivo molto attentamente parlare l'esperto, dobbiamo seguire proprio quell'indicazione che lui dà, ma all'interno dei nostri luoghi, che l'aria è molto più inquinata. Sì, però con i rifiuti urbani c'entra poco. Io ho grande rispetto per il suo brevetto, però in questo momento stiamo parlando di materia solida. Chiaro, se ci fosse qualcosa che mi allevia dall'odore dei miei colleghi, dalla moquette per terra, mi farebbe molto piacere, però il problema che stiamo toccando noi è di segno lievemente diverso. Mauro, buongiorno, ultimo ascoltatore. Sì, buongiorno. La mia è un'esperienza personale, avendo vissuto a Berlino, in Germania, e lì fondamentalmente i contenitori hanno un prezzo, quindi io compro una bottiglia di birra, ho 10 centesimi di sovrapprezzo che mi vengono restituiti nel momento in cui io riporto la bottiglia di birra. Lei dice un problema che abbiamo già toccato in altre trasmissioni, che fa parte di questo problema. Se i contenitori li pagassimo, staremmo più attenti nell'uso che ne facciamo quando non ci servono più. Grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, grazie soprattutto a Raffaele Rossi. Ci sentiamo domani.